peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascoltiamo due nuovi talenti, due musicisti giovani che si sono fatti notare sulla scena internazionale per le loro qualità sia nella personalità musicale che esprimono che anche nella maturità della preparazione artistica, della preparazione strumentale. E il primo che ascoltiamo, il primo disco che ascoltiamo è un'opera prima, si tratta di Chris Clark, è un musicista, un sassofonista, un giovane sassofonista, sono entrambi quelli che ascolteremo, sono sotto i 30 anni. E questo Chris Clark è un sax tenore che cresce un po' sotto la protezione, insomma, il sostegno di un altro sassofonista, anche questo non certo anziano, però già da qualche anno sulla scena, si tratta di Peter Epstein, sax contralto o soprano. I punti di riferimento sono sicuramente nell'ambito della musica tra New York e Boston, la provenienza è bostoniana, ma insomma il polo attrattivo è sicuramente quello newyorkese, che peraltro ha la capacità di accogliere qualunque stile, qualunque voce anche diversa. È un'opera prima che appunto dà l'impressione di una maturità ormai acquisita, di una personalità che utilizza la cosa interessante, queste personalità di questi giovani che utilizzano in modo spregiudicato, tranquillo, senza nessun tipo di vincolo stilistico, utilizzano tutti i vecchi della storia del jazz e tra l'altro facendo notare anche quali sono gli apparentamenti, per esempio il tratto diretto tra il cool che suggerisce anche questa musica e quella che è stata poi l'esperienza colemaniana e questo il cosiddetto free bop, come attualmente viene definito, che peraltro è diventato un riferimento costante. Quindi si usano un po' tutti gli stili, appropriandosene con un percorso proprio e poi naturalmente senza prescindere da una preparazione musicale, accademica, profonda e che riesce a dare un sostegno strutturale notevole. La formazione è Chris Clark al tenore, Peter Epstein al contralto e soprano, poi si aggiunge il pianoforte di David Hack, Zach Teran al contrabbasso e Jesus Vega alla batteria, tutti giovani, con l'anziano Peter Epstein, anziano per dire, e il lavoro prodotto dall'etichetta Songline, un'etichetta canadese che è molto attenta alla terza strada, questi linguaggi che sono anche di confine tra la musica contemporanea, musica classica e certe visioni nuove del jazz. Il disco è intitolato Cedar Wesley. Ascoltiamo un paio di brani e poi ne parliamo. Thank you. secondo brano che abbiamo ascoltato era decisamente una dedica esplicita anche da parte di Chris Clark, l'ha dichiarato naturalmente in modo esplicito la sua attenzione, il suo interesse per la musica di Ornette Coleman, ma anche il primo brano che abbiamo ascoltato, anche questo aveva una vena colemaniana, quella parte perlomeno più melodica, più lirica, ma è sicuramente, probabilmente Ornette Coleman è uno dei musicisti, dei grandi della storia del jazz che ha condizionato maggiormente tutte le attuali generazioni e in pratica è una modalità imprescindibile quella che suggerisce questo rapporto tra un aspetto armonico informale e invece una definizione precisa dal punto di vista ritmico e un'ampia possibilità da un punto di vista melodico. Ascoltiamo un ultimo brano, ricordo che questi sono tutte composizioni scritte da Chris Clark. Ascoltiamo questo ultimo brano, Rock Bitter. Thank you. questo brano si assaporava un tipo di linguaggio diverso, più legato anche a una musica vicina al mondo più impressionista. Sicuramente ben composto, ben strutturato e anche originale nella sua composizione. Questo era il quintetto di Chris Clarke con una presenza importante come il sax contralto di Peter Epstein, David Eck al pianoforte, Zach Teran al contrabbasso e Jesus Vega alla batteria. Il disco successivo, il disco che ascoltiamo adesso, è un lavoro prodotto da Nat Woodley. Nat Woodley è un trombettista di questa nuova generazione di trombettisti che si sta rivelando come un punto di riferimento anche per un cambiamento della tecnica dello strumento, e quindi con qualità strumentali notevoli. Sono ormai molti i giovani trombettisti che dimostrano sia per il suono che per l'agilità nel fraseggio, dimostrano delle capacità tecniche che condizionano e modificano anche poi la struttura espressiva che propongono. Nat Woodley fa parte del gruppo di musicisti che ruotano intorno a un altro giovane talento che però già da qualche anno che si è imposto come uno dei musicisti più interessanti a livello non soltanto strumentale ma compositivo e nell'arrangiamento. Si tratta di Harris Eisenstad, batterista, che è appunto nei vari progetti che propone, uno di questi è il Canada, un progetto chiamato Canada, che poi è uscito già il volume 1, 2 e 3, insomma, tutte di ottimo livello e con musicisti all'interno che sono sicuramente tra i più interessanti della nuova generazione, uno dei quali è appunto Nat Woodley. Woodley, pur avendo giovane età, ha quindi un'esperienza di lavoro come sideman già ormai da qualche tempo, da alcuni anni, sicuramente non si parla di decenni, da alcuni anni. Come leader però ha coprodotto alcuni lavori, ma che erano più delle occasioni di incontro, così, di improvvisazione, più che dischi strutturati. Questo è il primo lavoro decisamente strutturato come composizioni, che firma anche negli arrangiamenti lo stesso Woodley. Il disco intitolato Friendship è uscito di recente e la formazione anche in questo caso è piuttosto cameristica, comunque che dà una timbrica particolare alla volontà strutturale dei vari brani. Woodley alla tromba, poi Josh Sinton alle anse, baritono e clarinetto basso, Matt Moran al vibrafono, ben titolato Matt Moran, e anche Edwin Oxvich, vabbè, questo è un po' uno scioglilingua, al contrabbasso, Dan Peck alla tuba e anche appunto, come dicevo prima, Harris Eisenstad alla batteria. Ascoltiamo un paio di brani intanto. Thank you. È interessante notare anche le derivazioni di questo musicista, di questo giovane trombettista, Nat Woolley, ricordo, stiamo ascoltando il suo sestetto. Nel primo brano è evidente anche un omaggio a Don Cherry, che peraltro è un musicista, uno dei musicisti che ha segnato decisamente con importanza la storia della tromba, specialmente dagli anni 60 in poi, quindi connotandone anche una espressività diversa da quella più tradizionale che apparteneva al bebop, ma senza distaccarsi, senza opporsi a questa, però cambiandola, e naturalmente anche un musicista che poi si esprime con un suono rotondo, molto morbido, che ricorda più la tradizione cool, però tiene conto proprio anche dell'esperienza di Don Cherry. È una musica, anche nel secondo brano che abbiamo ascoltato, si fa fatica a definire l'ambito nel quale si muove, però la vena che attraversa un po' tutto il disco è un'attenzione particolare, o quantomeno una acquisizione anche inconsapevole di una vicinanza al gospel e al blues. È una vena che la si avverte anche nel brano che abbiamo ascoltato. Il gospel è, direi che più del blues, il gospel è abbastanza riconoscibile in questo senso narrato, lirico, molto intenso. Ascoltiamo un altro brano da questo bel disco. Thank you. Questo era l'ultimo ascolto per oggi, il disco è intitolato Friendship, un disco uscito recentemente, proposto da Nat Woolley Sextet. Nat Woolley, trombettista, giovane trombettista, è sicuramente una delle promesse più interessanti delle ultime generazioni, una formazione che ha un'impostazione anche orchestrale in diversi momenti, quindi utilizza anche a pieno la forma del sestetto e anche la timbrica che propone. Nat Woolley alla tromba, Josh Sinton al clarinetto basso e al baritono, che abbiamo ascoltato in un bel assolo in questo brano, Matt Moran al vibrafono, Edwig Opswick al contrabbasso, Dan Peck alla tuba, che appunto dà una connotazione più classica alla formazione, e Harris Eisenstadt alla batteria. Un bel disco uscito recentemente, questo era l'ultimo ascolto. Vi ricordo che tutti i dati relativi agli ascolti di oggi li potete ascoltare nel nostro sito radiocittafugico.it, nella sezione musica potete ascoltare anche in podcast la trasmissione intera. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.